Io mi muovo, tu resta sempre in un punto. Dimmi, guardo. Certo, certo, piano piano, cioè il piano di prima. Sì, sì. Mi parlate di legami in amore, Eugenie. Possiate non conoscerli mai. Un tale sentimento non entri mai nel vostro cuore se volete essere felice. Che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore? Mi sembra chiaro che non lo si può considerare altro che l'effetto risultante dalle qualità di un bell'oggetto su di noi. Certi effetti ci trasportano, ci infiammano. Se noi possediamo quell'oggetto, siamo contenti. Se non è possibile averlo, piombiamo nella disperazione. Ma qual è la base di questo sentimento? Qual è la base di questo sentimento? Il desiderio. Quale la sua conseguenza? La follia.